Namaste, Nada Shivaya. Namaste, Nada Shivaya. La la la. Questa è Radio Isvara. Radio Isvara vi invita all'ascolto di Manunat Prabhu, lezioni e conversazioni. Per acquistare i libri esclusivi di Manonat Prabhu, vai al sito store.ishvara.org. Un amico che ha visto il video su YouTube intitolato Realize Spiritualism ha posto la seguente domanda o obiezione. Come fai ad essere certo che la tua realizzazione di Krishna non sia qualcosa di mentale piuttosto che di oggettivo? Come la distingui da una suggestione? In questo momento io mi trovo a Costa Rica, un paese dell'America Centrale. Tu puoi dire, sei sicuro che non si tratta di una suggestione, che in questo momento non ti trovi in Italia, in qualche altro posto? Qual è la prova che ti trovi lì? Tu puoi dubitare quanto vuoi, rimane il fatto che io mi trovo in Costa Rica. È anche superfluo che io lo dubiti o che mi ponga il problema se è una cosa mia mentale o no. Io lo so perché ci sono, lo vedo, ci vivo. Dare prove del mio stare in questo paese, di cui gli altri non possono dubitarne, dura. Qualsiasi cosa potrebbe essere una contraffazione. Se ti telefono potrei non essere io. Se ti mando una foto, un filmato, potrebbe essere una contraffazione, un montaggio. Se ti descrivo il posto dove sono, potrei essermi informato e ti sto ingannando. L'unica prova, al di là di ogni dubbio, sarebbe che tu prendi l'aereo e vieni qua, mi vieni a trovare.

verso 3. Osserva, o maestro, il potente esercito dei figli di Pandu, disposto in modo così strategico dal tuo brillante allievo, il figlio di Drupada. Spiegazione di Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Duryodhan, grande diplomatico, mette abilmente in evidenza i punti deboli di Dronacharya, ricordando a questo grande Brahmana la sua vecchia lite con il re Drupada, padre di Drupadi, moglie di Arjuna. In seguito a quella disputa, Drupada aveva compiuto un grande sacrificio, grazie al quale poteva avere un figlio capace di uccidere Dronacharya. Questi conosceva bene il potere eccezionale del figlio di Drupada, Dhristadyumna, ma quando lo affidarono a lui perché ne facesse un guerriero, egli accettò l'incarico. Brahmana generoso, egli non esitò a svelare al ragazzo tutti i suoi segreti nell'arte del combattimento. Dhristadyumna è ora dalla parte dei Pandava e ha organizzato le loro truppe secondo l'arte appresa da Dronacharya. Duryodhan ricorda dunque il suo errore a Dronacharya affinché egli sia vigile e senza debolezze. Dronacharya non dovrà mostrarsi indulgente neppure verso i Pandava, che furono anche loro suoi affezionati allievi, e in particolare verso Arjuna, il suo allievo più caro e brillante. La sua mancanza di fermezza condurrebbe alla sconfitta. Kamalam Sri Gurun Vaishnavam Sri Rupam Sabrajatam Sahagana Raghunatam Nitam Tam Swajivam Sadaitam Savadhutam Parijano Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalitam Sri Vishakharnitam State ascoltando Radio Isvara. Per acquistare i libri esclusivi di Manonath Prabhu, vai al sito store.ishvara.org. Brevi racconti con Ishvari. Buon ascolto con Radio Ishvara. Hare Krishna. Dal nettare della devozione. Le vertigini. Ogni sera, al crepuscolo, Krishna rientrava dai pascoli dove aveva sorvegliato le mucche. A volte, quando non sentiva la dolce melodia del suo flauto, Madre Yashoda si riempiva di un'inquietudine così forte che veniva presa da vertigini. È possibile quindi che l'inquietudine nata dall'amore statico provochi le vertigini. Un giorno Yashoda legò Krishna, dopodiché si mise a pensare: il corpo di Krishna è così soffice e delicato, come ho potuto legarlo con delle corde? A questo pensiero la sua mente si turbò ed ella fu colta da vertigini. Le gopi avevano ricevuto dai loro anziani la raccomandazione di chiudere a chiave la porta di notte, ma nella loro leggerezza esse non si curavano molto di queste raccomandazioni. A volte il pensare a Krishna dava loro tanta sicurezza di non correre alcun pericolo che se andavano la notte a dormire nel cortile della loro casa. In questo esempio la vertigine piena di amore statico è nata da un affetto naturale per Krishna. State ascoltando Radio Isvara. Gli audio che seguono sono tratti dal canale YouTube. youtube.com/user/Emanuela Torri. Buongiorno, buongiorno cari e care nel Signore. Oggi è il 7 maggio e oggi ci ritroviamo nella stanza delle letture spirituali speciali, quindi staremo in ascolto delle parole di Srila Prabhupada che ci spiega come, secondo la sua interpretazione, si può scoprire quello che è il nostro vero sé. Infatti il testo che stiamo leggendo è appunto Viaggio alla scoperta del sé. E siccome l'essere umano si esprime fortunatamente in vari modi, noi in queste stanze delle letture, cioè in questa che sono letture speciali spirituali che si occuperanno di più dell'aspetto, diciamo, orientale, e nell'altra invece, nell'altra stanza, ci occuperemo delle letture, diciamo così, medio orientali verso l'Occidente, e perché appunto staremo in ascolto di questi insegnamenti, perché io e le persone che sono interessate ad ascoltarli sono delle persone che ricercano appunto la verità, quindi siamo ricercatori spirituali, ma questo ci tengo a dirlo, non identificati in nessun preciso pensiero, nel senso che la nostra posizione, cioè la mia almeno, è la posizione di una ricercatrice, quindi non do niente per assoluto, ma mi piace ascoltare quello che viene dall'assoluto. Diciamo che questa è la mia personale filosofia, dove i requisiti necessari sono cordialità, gentilezza, sincerità e principalmente umiltà. Quindi, dopo questa piccola premessa che mi piace fare ogni volta che inizio questi video e di solito la rifaccio durante la metà del video, che di solito dura quasi sempre, insomma, un'oretta, quindi se avete fretta o state in un momento così di che non avete insomma il tempo per rilassarvi e se mettervi in una posizione di ascolto, è inutile insomma vedere i miei video. I miei video sono come un momento, già l'ho detto l'altra volta, queste per me sono lunghe preghiere in forma di lettura, quindi sono delle meditazioni che sono molto felice di fare con voi, perché le avrei fatte da sola e questa mia condizione di solitudine, diciamo, mi si è veramente così messa in luce quando appunto per questo virus, no? Perché questo virus ci ha costretto a stare chiusi, e in questa, diciamo, situazione di costrizione è come se avessi realizzato veramente qual era la mia condizione, cioè di totale isolamento, ma l'isolamento già c'era, nel senso che io già sono anni che faccio una vita, diciamo, di tra virgolette clausura, no? Nel senso che ho abbandonato da circa una quindicina di anni, forse più, tutto, forse di più, tutto quello che appunto riguarda i piaceri tra virgolette della vita mondana, quindi come dico sempre, night, feste, cene con più persone, perché quando poi intraprendi un certo tipo di vita ti piace proprio la vita che stai facendo, e quindi in un certo senso crei una sorta di separazione, no? Tra te e il mondo comune, cioè tutto quello che normalmente per comune intendo tutte quelle attività che le persone comunemente fanno, no? E questo stato appunto di lockdown mi ha messo in luce ancora di più, veramente, mi ha fatto capire ancora di più quale fosse la mia reale condizione, cioè, e a un certo momento ho come detto: no, adesso devo trovare un luogo che sia il mio luogo, dove io posso comunque entrare in contatto anche con le altre persone, però un luogo protetto, e questo luogo qui, questo del canale YouTube, che io veramente ringrazio molto, molta gratitudine per questo canale, e quindi chiaramente per tutta la tecnologia che sta intorno, che mi permette di avere uno spazio privato ma nello stesso tempo pubblico. E questa è una grandissima cosa. E poi chiaramente c'è sempre tutta un'interpretazione che può essere anche più vasta, no? Come tutte le cose, perché questo, questa libertà di poterci esprimere ci rende anche in un certo senso più vulnerabili da un certo punto di vista, perché chiaramente chi sta dietro tutte queste grandi organizzazioni, no? Come Google, Yahoo, Apple, mi sembra che Microsoft, insomma, YouTube credo che sia di Google, non lo so, ma penso proprio di sì. Ovviamente sono delle grandi, delle mega, non so nemmeno come chiamarle, non lo so come si chiamano, che però chiaramente in questa maniera ci controllano, nel senso che ne so, Google saprà perfettamente chi sono io, dove sto, che cosa mi interessa, quello che dico, quello che penso, quindi ovviamente tutto questo è anche questo una grande forma di controllo globale. Ma io non ho niente da nascondere e quindi chiaramente di questo io ne prendo quello che sono i frutti dolci per me. E infatti sono molto contenta di condividere con voi queste letture, perché come dico sempre, io non sono nient'altro che dal mio, diciamo nel mio profondo mi sento una ricercatrice spirituale, però da un punto di vista proprio oggettivo io sono un megafono, mi piace proprio quest'idea di vedermi, cioè di vedermi come un megafono, cioè un grande megafono che appunto amplifica le parole, in questo caso di questo grandissimo spiritualista che ha in un certo senso anche trasformato quello che poi è il nostro pensiero occidentale, perché è riuscito ad arrivare molto così in maniera capillare tra le persone, tra noi occidentali, anche se lui appunto viene dall'India. E i suoi insegnamenti hanno rivoluzionato la vita di molti di noi. Quindi per questo io sono molto grata a lui e sono molto grata anche appunto, come ho detto prima, a questo canale che mi permette di essere il suo megafono. Allora oggi parliamo... ascoltiamo il sé e i suoi corpi. State soffrendo perché nella vostra vita precedente vi siete lasciati andare alla gratificazione dei sensi e adesso avete ricevuto un corpo sulla base del karma. Dice Srila Prabhupada agli ascoltatori in una conferenza tenuta in un centro Hare Krishna a Detroit nel Michigan nel mese di giugno del 1976, quindi un anno prima della sua dipartita. Continua poi a spiegare il segreto per liberarsi dal karma e poi godere di una felicità perfetta. Come una persona addormentata agisce secondo il corpo che manifesta nei suoi sogni e lo considera il suo vero sé, così una persona si identifica con il suo corpo attuale, acquisito grazie alle passate attività religiose o irreligiose, e non è in grado di conoscere le sue vite passate o future. Questo è scritto nello Srimad Bhagavatam al capitolo 6, dal verso 1 al 49, oppure 1.49. Qui c'è un esempio molto bello dell'ignoranza che copre l'essere nel mondo materiale. Quando sogniamo, dimentichiamo tutto di noi stessi. Che siamo il signor tal dei tali e abbiamo un certo conto in banca. Tutto è dimenticato. Poi, quando ci svegliamo, dimentichiamo il sogno, ma sia nello stato di veglia, sia in quello di sogno, vediamo le nostre stesse attività. Nel sogno siamo testimoni e nel cosiddetto stato di veglia anche siamo testimoni. Così noi, l'anima spirituale, che ha questa esperienza, così noi, l'anima spirituale che ha questa esperienza, rimaniamo gli stessi, ma le circostanze cambiano e noi dimentichiamo. Similmente, non possiamo ricordare che cosa eravamo nella nostra vita precedente. E neppure possiamo sapere che cosa saremo nella nostra prossima vita. Ma è un fatto che, come anime spirituali, siamo eterni. Esistevamo nel passato, esistiamo nel presente e continueremo ad esistere nel futuro. Krishna spiega questo nella Bhagavad Gita, nel capitolo 2.12. O Arjuna, tu, io e tutte queste persone riunite su questo campo di battaglia esistevano nel passato e continueremo ad esistere nel futuro. Questa è la comprensione preliminare della vita spirituale, sapere di essere eterni. Vedete, quando appunto, come dicevamo nel video di ieri, no? Le due parole che, se vedete il video di ieri, lo dico proprio, no? Che queste due parole sono quelle che ci accompagneranno tantissimo nelle nostre letture, e appunto sono soprattutto la parola eternità e la parola infinito, no? Che appunto, secondo la mia comprensione, poi non so, è proprio questo, cioè per eterno si intende appunto l'eternità è relativa appunto al Cronos, no? Quindi all'idea di misurabilità del tempo, che proprio perché è infinito ci richiede appunto una numerazione, no? Enumerazione. Quindi noi abbiamo creato le ore, i giorni, i mesi, ma in realtà il tempo è eterno. E l'altro invece termine, che ripeto sempre, che dobbiamo considerare ormai nostro proprio, la nostra, diciamo, nostre confidenti nel nostro pensiero, nel nostro, diciamo, linguaggio, è infinito. E per infinito si può intendere sia, lo si può vedere sia sul piano sempre, diciamo, temporale, no? Quindi sempre relativo ad eternità. Ma in realtà infinito più che altro è, secondo me, l'idea di spazio, cioè di uno spazio che sia infinito. Quindi queste due misurazioni che, quando noi parliamo di Dio e divinità, sono due parole che sono sempre molto presenti, ma una comprensione della divinità ci mette in una, abbiamo la chiara visione che in realtà la divinità è addirittura oltre questi due aspetti, oltre queste due idee, no? Sia di tempo che di spazio. Quindi eterno e infinito. Come anime spirituali non dobbiamo né nascere né morire. Non siamo distrutti quando il corpo materiale muore. La distruzione del corpo sta già avvenendo. Il nostro corpo d'infanzia adesso è distrutto. Quel corpo non c'è più. Il nostro corpo di ragazzo è anch'esso distrutto, non c'è più. e nello stesso modo anche il nostro corpo presente sarà distrutto e prenderemo un altro corpo. Quando l'anima trasmigra, il corpo grossolano è perduto. Il corpo grossolano è fatto di materia e tutto ciò che è fatto di materia alla fine sarà distrutto. Tale è la natura stessa della materia, ma l'anima non sarà mai distrutta. Così noi cambiamo corpi uno dopo l'altro. Perché ci sono differenti forme corporee? Perché l'essere vivente, l'anima spirituale, entra in contatto con varie influenze della natura materiale e secondo le influenze da cui è condizionato, l'essere vivente sviluppa un corpo grossolano, cioè questo nostro corpo viene considerato grossolano. Perciò noi abbiamo acquisito il nostro corpo presente a causa delle nostre attività passate. Qui c'è la citazione di un verso in sanscrito che cerco di leggervelo come io posso, e è Karmana Daiva Netrena Jantur Deho Papataye. Una persona ottiene un particolare corpo secondo il suo karma passato, ossia le sue attività materiali. La nostra natura agisce automaticamente secondo il nostro karma. Supponiamo che una persona contragga una malattia, la natura agirà, la persona svilupperà quella malattia e sarà sottoposta alla sofferenza. Similmente, quando noi cadiamo sotto le influenze della natura materiale e compiamo attività materiali karmiche, dobbiamo trasmigrare di corpo in corpo. Le leggi della natura funzionano perfettamente. Ma ora, quando arriviamo alla forma di vita civilizzata, dovremmo chiederci: perché sto soffrendo? Il problema è che trovandoci noi qui sotto il velo di Maya, l'illusione, scambiamo la sofferenza per godimento. È proprio vero. Addirittura io lessi tanto tempo fa, chi ha su per giù la mia età se lo ricorda, io ho compiuto adesso 58 anni, quindi insomma... alcuni di voi che su per giù hanno la mia età o un po' più grandi si ricordano quando ci fu il periodo dei sequestri negli anni 70, non lo so se anche prima, comunque io mi ricordo quelli degli anni 70, e che le persone venivano sequestrate e addirittura si scriveva in vari articoli, c'erano alcune confessioni di alcune vittime di sequestro che in un certo senso si erano quasi innamorate dei loro sequestratori. Quindi l'essere umano è talmente particolare che appunto cioè addirittura riesce a trovare un piacere, no? Addirittura quando sta in un certo senso subendo una che per tal'altre persone potrebbe essere una grande sofferenza, insomma, no? Cioè sentirsi privati della libertà, sbattuti in una stanza e chiusi dove si è completamente sotto il controllo di un'altra persona, insomma, per qualcuno deve essere una cosa terribile, eppure c'è chi da questo ne trae del piacere. Quindi Prabhupada dice: noi stiamo pensando di godere, ma in effetti stiamo soffrendo. In questo corpo materiale dobbiamo soffrire. Soffriamo a causa del corpo. Freddo, intenso o caldo eccessivo, sentiamo queste cose a causa del corpo. In certe circostanze proviamo piacere. Ma nella Bhagavad Gita Krishna consiglia: Matra sparshas tu kunt Teya Shintoshna Sukha Dukha Da Agama Paino Nityas Tamsti Sasva Bharata. O figlio di Kunti, la comparsa non permanente della gioia e del dolore e la loro scomparsa nel corso del tempo sono simili all'alternarsi dell'inverno e dell'estate. Gioia e dolore sono dovuti alla percezione dei sensi o discendente di Bharata e si deve imparare a tollerarli senza esserne disturbati. Finché siamo in questo mondo materiale, la felicità e la sofferenza si alterneranno. Ma noi non dovremo esserne disturbati. Questo deve andare avanti, non deve fermarsi. La realizzazione spirituale è lo scopo della vita umana. E chi ascolta queste letture, me compresa, ha proprio perfettamente capito che questo è lo scopo supremo. Cioè, non c'è, secondo noi, secondo me e chi mi ascolta, questo è lo scopo supremo della vita umana, anche perché tra l'altro, secondo quella che appunto è la legge della reincarnazione umana, della reincarnazione, scusate, non umana, ma appunto secondo la legge della reincarnazione, perché è una legge, è la legge alla base della reincarnazione, appunto c'è la legge della causa e dell'effetto, quando poi l'anima, dopo che è trasmigrata in vari corpi, arriva nella forma umana, la forma umana le permette di realizzarsi spiritualmente. Quindi questo è un momento per noi, dato che noi siamo tutti umani qui, molto importante, che non dovremmo sprecare, perché non è molto semplice arrivarci alla forma umana ed è appunto una grande opportunità e potrebbe essere anche l'unica, perché non è detto che io una volta morta mi reincarnerò in un uomo o una donna, non è detto, no? La sofferenza e la cosiddetta felicità continueranno finché avremo un corpo materiale, ma noi dobbiamo elevarci alla comprensione di non essere il corpo, ma un'anima spirituale. Ho questo corpo a causa delle mie attività passate. Questa è conoscenza. Prabhupada è netto, categorico, non ammette replica e diciamo che evita qualsiasi tipo di dubbio. Ora, una persona sensibile dovrebbe fare questa considerazione. Poiché io sono un'anima spirituale e il corpo è solo una copertura, non è possibile mettere fine a questo processo di trasmigrazione di corpo in corpo? Cioè, noi dovremmo farci questa domanda. Questa è vita umana. Chiedersi come fermare la contaminazione del corpo materiale. Sfortunatamente le persone di questa cosiddetta civiltà moderna non si pongono questa domanda. Impazziscono per gratificare i sensi del corpo e agiscono in modo irresponsabile, perché purtroppo diciamo, le conseguenze di questo ardente desiderio di diciamo, soddisfare quelli che sono i nostri sensi purtroppo poi ci fa agire in maniera irresponsabile. Come spiegato nello Srimad Bhagavatam, Numan pramata kurute vikarma yad indriya pritaya aprinoti na sadhu manyayata atmanoyam asannapi klesha da asa de ha-ha. Noi non comprendiamo che il corpo è sempre kleshada, ci dà sempre dolore. Per il momento potremo anche sentire il piacere, ma in effetti il corpo è una riserva di sofferenze. Qui c'è una bella analogia a questo riguardo. Precedentemente, quando gli ufficiali governativi volevano punire un criminale, gli legavano le mani, lo portavano in mezzo a un fiume e lo spingevano sotto l'acqua. Terribile. Quando era quasi affogato, lo tiravano fuori per i capelli e gli concedevano un po' di riposo. Dopo lo rimettevano ancora sotto acqua. Questo era un metodo di punizione. Similmente, qualunque piccolo piacere noi sperimentiamo in questo mondo materiale è esattamente come il piacere del criminale quando veniva tirato fuori dall'acqua. Una grande sofferenza con qualche momento di sollievo. Questa è la vita nel mondo materiale. Chi è che non l'ha sperimentato? Oppure quando proviamo una grande felicità materiale? Come stiamo? Abbiamo paura di perderla? Oppure poi comunque la perdiamo e quindi questa grande felicità che ci era stata donata dalla vita poi allo stesso modo ci ripaga con una grandissima sofferenza? Chi non l'ha mai provato? No, abbiamo avuto nella vita situazioni bellissime che ci hanno portato, come si dice, al settimo cielo, ma quanto le abbiamo pagate? Anche, non lo so, per esempio io che sono donna, il desiderio spasmodico, per esempio, che avevo quando ero giovane di avere un figlio. È vero, ho avuto il figlio, però quanto ho sofferto per questo figlio e soffro. Quindi, voglio dire, anche le cose più naturali, quelle che dovrebbero essere cose, diciamo, proprio della natura più pura e profonda della materia, quindi il fatto che noi appunto ci dobbiamo riprodurre, quindi anche giustificata, no? Non cose così, desideri, no? Che sono poi un po', diciamo, avulsi da quella che è, no? L'iter della vita normale di chiunque, cioè appunto nascere, riprodursi. Anche in quel settore lì, quante sofferenze ci sono. Quindi, similmente, qualunque piccolo piacere noi sperimentiamo in questo mondo materiale è esattamente come il piacere del criminale quando veniva tirato fuori dall'acqua. Perché subisco le tre forme di sofferenza? Questa è intelligenza. Siamo costantemente sottoposti a qualche forma di sofferenza causata dal corpo o dalla mente, inflittaci da altri esseri viventi o da disturbi naturali. Noi non vogliamo queste sofferenze, eppure siamo forzati a subirle. Così, quando una persona accetta un maestro spirituale, la prima domanda dovrebbe essere: maestro, perché sto soffrendo? Noi però siamo diventati ottusi come gli animali e non facciamo mai questa domanda. Gli animali soffrono, tutti lo sanno, ma essi non possono chiedersi perché. Quando un animale viene portato al mattatoio non può chiedere: ma perché mi stanno portando di forza qui? Ma se si cerca di uccidere un essere umano ci sarà una grande protesta: mi vogliono uccidere, perché devo essere ucciso? Quindi un'importante distinzione fra gli esseri umani e gli animali è che soltanto gli esseri umani possono chiedere: perché sto soffrendo? Che tu sia il presidente Nixon o un uomo di strada, stai soffrendo. Questo è un fatto. Stai soffrendo a causa del tuo corpo e stai facendo cose che ti costringeranno ad accettare un altro corpo materiale. Stai soffrendo perché nella tua vita passata ti sei lasciato andare alla gratificazione dei sensi e hai quindi ricevuto un corpo secondo il tuo karma. E se ti impegni di nuovo nella gratificazione dei sensi in questa vita e non cerchi di elevarti, dovrai prendere un altro corpo e soffrire. C'è gente che dice magari è contenta, no? Vuole prendere tanti corpi e provare tanti tipi di piaceri materiali, e quindi se uno presenta loro un pensiero di questo tipo, loro casomai ci rispondono proprio magari, magari. Perché la maggior parte della gente crede appunto che una volta che è morta finisce tutto, no? Rimanere in quella situazione compatta per molti mesi, mani e piedi bloccati, incapace di muoverti, questa è sofferenza. E oggi c'è perfino il rischio di essere uccisi nel grembo de stesso della madre. E quando ne esci, la sofferenza crescerà. Che poi questo lui dice oggi, ma nel senso lui vuole dire oggi, perché oggi questa cosa, dato che lui parla di questo periodo, forse è il momento dove in Occidente, perché mi sembra proprio che fosse quel periodo lì, l'aborto è diventata legge, ma il discorso dell'essere uccisi nel grembo della madre è un discorso che è vecchio quanto l'essere umano, insomma, nel senso che la pratica dell'aborto è sempre stata, diciamo, usata, perché è vecchia, solo che poi, appunto, siccome praticandolo in maniera illegale non solo morivano i bambini nel grembo della madre, ma morivano pure le madri, perché provocavano appunto l'aborto in maniere veramente assurde, tipo inserire nella vagina ferri della calza, sai, i ferri per fare la calza, oppure ingerire enormi quantità di prezzemolo lessato, cioè delle pratiche veramente assurde, ma in questo periodo la pratica appunto dell'aborto divenne legge, nel senso che se una donna decideva di abortire, come oggi tuttora ancora c'è, può andare in una struttura sanitaria, così evita di morire lei e il bambino stesso. Quindi dovremmo essere abbastanza intelligenti da chiedere: perché sto soffrendo? Come posso fermare questa sofferenza? Finché non ci chiediamo perché sto soffrendo, la nostra vita umana non è cominciata, siamo ancora animali. Cercare di capire qual è la causa originale della nostra sofferenza è ciò che si chiama Brahma Jnyasa, porsi delle domande sulla verità assoluta. Come è detto all'inizio del Vedanta Sutra, Atato Brahma Jnyasa, una volta arrivati alla forma umana ci si dovrebbero porre domande sul Brahman, la verità assoluta. Quindi dovremmo avvantaggiarsi della forma di vita umana. Non dovremmo vivere come animali, senza interrogarci sulla verità assoluta, senza cercare di scoprire come porre fine alla nostra miserabile vita materiale. Naturalmente stiamo già cercando di porre fine alla nostra sofferenza, perché lavoriamo duramente nella lotta per l'esistenza. Perché cerchiamo di ottenere del denaro? Perché pensiamo, se io posso avere del denaro, la mia sofferenza sarà mitigata. Così la lotta per l'esistenza va avanti e tutti cercano di diventare felici con la gratificazione dei sensi. Ma la gratificazione dei sensi non è la vera felicità. La vera felicità è la felicità spirituale che viene dal servire Krishna, Dio. Questa è la felicità. La felicità materiale non è che il suo riflesso distorto. La felicità materiale è come un miraggio dell'acqua nel deserto. Nel deserto non c'è acqua, ma quando un animale assetato vede il miraggio dell'acqua, lo rincorre e poi muore. Sappiamo che non c'è acqua nel deserto, che l'acqua è solo un riflesso della luce del sole, ma gli animali non lo sanno. In modo analogo, Vita umana significa abbandonare questa ricerca di felicità per la gratificazione dei sensi del tutto simile a un miraggio nel deserto e cercare invece la felicità spirituale. Possiamo accedere a questa felicità più elevata con il semplice canto del Maha Mantra. Questo è un mantra che appunto Srila Prabhupada ci consiglia, e poi credo anche in questo libro o se negli altri successivi che leggeremo ci spiega anche da dove viene questo mantra in maniera diciamo un po' più complessa. E appunto possiamo accedere a questa felicità più elevata con il semplice canto del Maha Mantra: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. È così facile. Eppure il canto può alleviare tutte le sofferenze del mondo materiale. Infatti molte persone hanno trovato, diciamo, un alleggerimento della vita materiale appunto praticando quotidianamente il canto, questo canto che è un mantra che si ripete mentalmente oppure a voce alta oppure quando è il momento più diciamo felice insieme anche ad altre persone. E proprio attraverso questo canto ci si libera molto da tutto quello che è inutile nella nostra mente, nel nostro cuore, ci si purifica, no? Infatti dice appunto che il canto può alleviare tutte le sofferenze del mondo materiale. La nostra sofferenza è causata da tutta la sporcizia, vedete, che alberga nel nostro cuore. Siamo proprio come criminali dal cuore pieno di impurità. Il criminale pensa: se avessi quella cosa sarei felice. E così, a rischio della sua vita, commette un crimine. Un ladro, un rapinatore. Sa che se viene catturato dalla polizia sarà punito. Tuttavia continua a rubare. Perché? Numan pramataha. Egli è impazzito per la gratificazione dei sensi. Tutto qui. Prabhupada è così. Ragazzi, ragazze, cari nel Signore, se non avete mai sentito parlare di Prabhupada e di come spiega le cose, ecco, vi dovete abituare un po' a questo sistema che può sembrare crudo, forte, ma quando si fa un processo di purificazione si arriva anche a comprenderlo, questo modo di parlare. Lui è uno dei maestri di questa linea qua, che è molto libero nell'essere, diciamo così, categorico. Dobbiamo quindi purificare il nostro cuore dai desideri impuri che ci forzano ad agire per la gratificazione dei sensi e a soffrire. In questa era la purificazione è molto facile. È sufficiente cantare Hare Krishna. Questo è un contributo di Sri Chaitanya Mahaprabhu, che credo poi spiegherà chi è. Ceto darpana marjanam bhava maha davagni nirvapananam. Se cantate il mantra Hare Krishna, sarete alleviati dalla sofferenza causata dalla trasmigrazione dell'anima di corpo in corpo. Cantare una cosa così semplice, non c'è problema di casta, di credo, di nazionalità, di colore o di posizione sociale. Per la grazia di Dio tutti hanno la lingua e gli orecchi. Così tutti possono cantare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cantate Hare Krishna e sarete molto felici. Grazie molte. Questa è la parte, diciamo, oggi abbiamo finito con questo video la parte introduttiva, la prima parte di questo testo di Srila Prabhupada, che ci insegna, secondo quella che ovviamente è la sua interpretazione, come facciamo a capire chi noi siamo veramente. Poi nel prossimo video, in questa stanza di letture spirituali speciali, dalla prossima volta, quindi dal prossimo video, inizieremo la parte seconda. Fino adesso abbiamo letto la prima parte, adesso dal prossimo inizieremo appunto la parte seconda, dove si parla della coscienza suprema, e quindi questo sarà veramente molto interessante, perché ci spiegherà Prabhupada, Srila Prabhupada ci spiegherà qual è la coscienza suprema. Cari nel Signore, care nel Signore, mie amiche carissime, a voi tutti che mi ascoltate, ovviamente vi voglio un mondo di bene e vi auguro ogni bene, e ci vedremo appunto, se voi volete, per continuare questa meravigliosa, alle mie orecchie, questa meravigliosa lettura. È rara, perché queste stanze sono, soprattutto questa stanza, si occuperà di letture spirituali rare, non molto conosciute. Arrivederci. State ascoltando Radio Isvara.